9.02 minuti e 20 secondi per la precisione, per il voltiamo pagina nel magico mercoledì di Radio Città Fusico. Qualche accorgimento in playlist, oltre a quella selezionata da Silvia e Stefano per questo premio aggiuntivo per l'appuntamento di domani sera in ambito di Ravenna Jazz edizione 2024, di cui vi parleremo. Intanto do il buongiorno a Silvia, bentrovata cara Silvia. Buongiorno a te, a tutte e tutti. Diamo il buongiorno anche a Stefano, il nostro notaio, che fa ciao con la manina tipo Adams, ma quello che riesco a vedere da questa parte di studio a tutto ciò, ringraziandolo per la generosità con la quale mette a disposizione per le ascoltatrici e gli ascoltatori l'appuntamento nella città bizantina di Ravenna per il concerto di Abdullah Ibrahim. Ne parleremo. Intanto, a proposito di corsi, ricorsi, ricorrenze, commiati e saluti, in playlist letteraria si parte con un tributo a un grandissimo scrittore recentemente scomparso, se non vado errato, Silvia? Sì, è scomparso da pochi giorni, Paul Auster. E ho pensato che era doveroso parlare di questo grandissimo autore. E quindi, siccome non abbiamo mai trattato del suo ultimo romanzo nelle nostre pagine, nelle nostre pagine, sì, in frequenza, che è uscito lo scorso autunno, ho pensato di portarlo e di parlarne un poco insieme, anche partendo però direi proprio da un brevissimo ritratto, ricordo di questo personaggio, che è chiaramente Paul Auster. Paul Auster, che è uno dei più grandi scrittori americani del secondo Novecento, uno scrittore che forse, per il quale forse si potrebbe usare una formula che Virginia Woolf usava per Jane Austen. Virginia Woolf diceva che Jane Austen è una degli scrittori, delle scrittrici più difficili a cogliersi nell'atto della loro grandezza, cioè di cui è difficile spiegare perché è grande ed evidenziare un momento della loro grandezza. Ecco, Paul Auster è uguale, forse, cioè personalmente preferisco Paul Auster a Jane Austen, ma questa è una cosa mia personale, anche se lei è un classico e lui è un contemporaneo. Paul Auster per me è stato importantissimo perché in un certo periodo della mia vita, cioè negli anni 90, proprio io l'ho scoperto e mi sono innamorata del suo lavoro e ho letto tutto quello che mi capitava per le mani. Di lui leggete tutto? Sì. Hai letto anche la trilogia di New York? È stata la prima cosa che ho letto, ovviamente. Come me, io uguale. Io sono partita dalla trilogia perché qualcuno mi disse appunto che io stavo lavorando sul postmoderno canadese e qualcuno mi disse: ma come, non puoi lavorare sul postmoderno e non conoscere Paul Auster? Giusto. E veramente, devo dire che la cosa è andata di pari passo, per uno strano caso. Io negli Stati Uniti, a Providence, all'Università di Brown, e un professore lì mi disse appunto: ma devi leggere Paul Auster. E nello stesso tempo mi disse anche: lo sai che qui ha studiato per un anno al Royal Institute of Design a RISD David Byrne con i Talking Heads, con gli altri Talking Heads. E così imparai anche a conoscere David Byrne in quello stesso momento e ho sempre appaiato queste due figure, perché in entrambi questi personaggi non solo erano personaggi geniali, ma raffiguravano molto bene, l'uno con la musica e le parole delle sue canzoni e l'altro con i suoi libri, la condizione dell'uomo postmoderno, diciamo la condizione dell'uomo contemporaneo, questo vivere in maniera estremamente frammentata, questo non riuscire a cogliere la propria identità, questo in qualche modo essere uno e nessuno, ma non 100.000. Illusioni e disillusioni, strutture che portano questa introspezione di lettura nei lavori che ho letto di Paul Auster, che anche a me ha affascinato tantissimo, oltre che dalla trilogia di New York, citeremo anche altri lavori, come è vero, ho letto La musica del caso. Musica del caso, libro, certo, sì, Mister Vertigo. Il libro delle illusioni. Il libro delle illusioni è un libro magnifico, perché nel libro delle illusioni lui inventa tutta una serie di film muti, no? È la storia di un ricercatore che lavora sul cinema muto e quindi a un certo punto trova delle bobine di film inediti o che sono andate, va sì. alla ricerca di film perduti e te li racconta. Quindi c'è questo gioco del cinema illusorio dentro la narrazione, che è eccezionale. E beh, poi non lo so, ce ne sono tantissimi. Parallelismi, mi viene in mente, anche se per me lui è superiore, a me viene in mente Don DeLillo, ecco, anche se per me Paul Auster è, lo preferisco. Sono ecco. diversi, sì, certo, tra l'altro anche la mole dei libri è diversa. Sì. Una cosa che mi ha sempre piaciuta in Paul Auster è che non ha mai fatto dei volumoni da 500 pagine, no. tranne il penultimo, che io confesso non ho letto perché era la seconda parte della sua autobiografia, non l'ho letto perché quando ho visto la mole mi sono spaventata. Mi rendo conto. Però sì, veramente, e poi c'è questa cosa in Paul Auster che è eccezionale, che lui dice fin in apertura della trilogia di New York, l'idea che niente è reale tranne il caso. E tutti i suoi romanzi appunto giocano sul caso, su questi casi, queste coincidenze che capitano nella vita e che ti cambiano il destino o che comunque lo manipolano in qualche modo. Vabbè, viene definito, e lo è, uno dei grandi cantori della Grande Mela. Sì, certo, certo, naturalmente. New York, inizialmente è la trilogia di New York, no? Parte con la trilogia di New York, dove ti fa vedere appunto questa città nella quale ci si può perdere. Ci si può perdere perché è così enorme, no? E che nello stesso tempo, nella quale puoi perdere la tua stessa identità, puoi non riconoscerti, però è il naufragarmi dolce in questo mare, in qualche modo. E poi dopo di New York poi si concentrerà su un quartiere, un borough, che è Brooklyn, dove lui viveva, per cui ci saranno le Follie di Brooklyn e poi lo stesso Baumgartner, che è l'ultimo libro, è ambientato tutto a Brooklyn, e i due film che lui ha fatto, il primo con il regista Wayne Wang e il secondo da solo, che sono Smoke e Blue in the Face. Uno è il seguito dell'altro, dai quali poi ho preso la colonna sonora per infatti questo. Ho visto, a proposito di Smoke, questa colonna sonora molto particolare, graffiante e fumosa, in effetti, a proposito del titolo. Lui definì Bush, al momento della sua elezione, la traduzione di Bush è cespuglio, e lui lo definì non un cespuglio, un arbusto velenoso. E quindi già questo motivo di critica è molto molto forte, ma anche molto attinente a quello che ha vissuto il mondo nel periodo che ho appena portato con la presidenza di Bush negli Stati Uniti d'America. Tu hai portato un lavoro? Sì, ho portato l'ultimo, okay, libro, l'ultimo libro di Paul Auster, che è uscito appunto nell'autunno del 23, quindi recente, e devo dire che è quanto mai adatto, diciamo, a un ricordo di questo grande autore, perché è un libro che non è il solito testamento, cioè lo leggiamo come un testamento, con questa frase abbastanza solenne, di circostanza. Infatti. No, è un libro invece però che, riletto alla luce della sua dipartita, ti crea, acquista un altro senso, diciamo, ti crea un senso di mestizia, ma anche di, non so, di una malinconia dolce, se vogliamo. Perché, dunque, prima di tutto, in Baumgartner chiaramente Paul Auster riflette se stesso. Baumgartner è un professore di filosofia che ha superato la settantina e per la precisione ha 72 anni e che vive una situazione molto particolare perché ha perso la moglie, che era molto più giovane di lui tra l'altro, una decina di anni prima, in circostanze appunto casuali, questo caso che ti dominante irrompe nella vita e ti cambia il destino. La moglie, che fra l'altro era un'ottima nuotatrice, è morta annegata facendo il bagno nell'oceano, e quindi un'onda l'ha travolta, un'onda anomala, e quindi lui non riesce a uscire da questa condizione di lutto, non riesce a elaborare questo lutto, e quindi così si trascina, sono 10 anni che si trascina, e però adesso comincia a rendersi conto che sta invecchiando, che sta perdendo dei colpi. L'inizio è, Paul Auster è anche molto ironico, perché l'inizio veramente è, uno non si può non riconoscere uno che comincia ad avere una certa età, nel senso che il personaggio è al piano di sopra, il personaggio è nel suo studio, che sta al piano di sotto in una di queste brownstones, queste casette belle, case di Brooklyn, ed è al piano di sotto e sta scrivendo un suo libro su Kierkegaard. A un certo punto gli viene in mente che ha bisogno di una citazione che sta nel libro che leggeva prima di dormire al piano di sopra. Va al piano di sopra per prendere il libro, ma mentre sta andando al piano di sopra per prendere il libro, gli viene in mente che aveva promesso di telefonare a sua sorella. Allora va in cucina per telefonare alla sorella, per prendere il telefono, e quando è in cucina scopre che c'è un tremendo odore di fumo e c'è un pentolino che sta bruciando, perché lui si era fatto un ovale a coq per colazione 2 ore prima e si era scordato di spegnere il telefono. Bello che strinato. Tira sul pentolino per fare in fretta, non prende le presine e si brucia. Ora questa concatenazione, no, di piccoli eventi tutti così suscitati da questa serie di casi è non solo è tipica della narrativa di Paul Auster, ma direi che è tipica del modo di agire arrivati a una certa età, quando si comincia a dimenticare di fare le cose e si cerca di frettolosamente rimediare con risultati deleteri. Molte volte vanno a peggiorare la situazione. Prendere un CD che stava cadendo, non so come ho fatto, mi sono tagliato un dito. Appunto. Ecco, vedi. Infatti anche a lui succederà più tardi, accompagnando il lettore del contatore della luce a leggere il contatore in cantina, si inciampa e si fa male a un ginocchio. E vabbè. Tutto questo, dicevo, un personaggio quindi che sente sempre più forte il tempo che passa e comincia a domandarsi: ma quanto tempo mi resta non da vivere? Quanto tempo mi resta di lucidità? Ah, certo, a me ricorda tantissimo, poi sono qui per essere smentito, la micro sensazione che mi dà nei libri che ho letto e anche a parlarne con chi l'ha letto è di un Woody Allen. Beh, c'è qualcosa, senza dubbio. Cioè, è di un Woody Allen, sì, certo. È un altro personaggio, è chiaro, però non so. Viene in mente un Woody nei suoi. No, no, hai ragione. Vedo quell'immagine. Baumgartner potrebbe essere interpretato in qualche modo da Woody Allen. Vedi. Se non fosse che è un omone. No, certo. Sì. Woody Allen sovrappeso un po'. Beh, ecco, sovrappeso. Un pochino. Io me lo immagino questo Baumgartner come Paul Auster, cioè, che era un bell'uomo. È un bell'uomo, sì. Alto. Sì. Beh, è altezza mezza bellezza, lo scherzo, no, scherzo, dicevo alto perché Woody Allen non lo è. No, è minuto, esile, sì, certo. E quando arrivi alla fine di questo romanzo, questo è il tipico romanzo in cui non succede niente. Ma succedono tutti questi piccoli casi. E soprattutto Baumgartner, cioè, c'è un solo fatto. Baumgartner fa un sogno. Un sogno così reale che è convinto che sia successo. Sogna che la moglie gli telefona e gli dice: senti, datemi una mossa, perché finché tu non mi abbandoni, non la smetti di pensare solo a me, io non posso arrivare al paradiso, non posso arrivare al riposo eterno, insomma. Quanto è kafkiano e quanto c'è anche Woody Allen in tutto ciò, E allora lui capisce che non è stata lei a telefonargli. Però nello stesso tempo dice: sì, ha ragione lei, sono passati 10 anni, è meglio che mi dia una mossa. E quindi, per esempio, la prima cosa che fa va in pensione. Sai che in America non c'è un'età di pensionamento. È una scelta. Lui a questo punto sceglie di andarsene in pensione e di dedicarsi esclusivamente alla scrittura di un lavoro un saggio sull'arto mancante, cioè quella, sulla sindrome dell'arto mancante. Beh, però tante sono poi le citazioni alla moglie scomparsa, certo, con l'arto mancante. Infatti, manca un pezzo fondamentale. Ma lui lo dice a un certo punto: io sono un uomo monco, mi manca mia moglie, che era una parte di me. Quindi la sindrome dell'arto mancante poi diventa la sindrome della persona mancante. È un transfer su quello. E nel frattempo comincia a riaprirsi alla vita, ha una relazione con una collega, relazione poi abbastanza così, non dico insoddisfacente, però una relazione che non può concretizzarsi in maniera come lui vorrebbe. A un certo punto lui le propone il matrimonio. Addirittura. E questa donna dice: beh, no, io sto bene così, perché mi devo sposare? Devo cambiare le cose. Vengo da un'esperienza matrimoniale fallimentare, perché devo cambiare? Andiamo avanti così. E lui invece si rende conto che non gli basta andare avanti così. E vabbè, e di avvenimento, piccolo avvenimento in piccolo avvenimento, fa amicizia col ragazzo che appunto è andato a leggergli il contatore dell'elettricità, fa tutta una serie di piccole cose quotidiane, fino ad arrivare alla fine dove la sua vita gli sembra che possa prendere una piega nuova, perché una giovane ricercatrice l'ha contattato per avere dei consigli per la sua tesi di dottorato, e lui l'ha così di d'amblè, senza pensarci su due volte, la invita ad andare a casa sua a vedere a consultare la sua enorme biblioteca sull'argomento e anche i suoi appunti, e le mette a disposizione una dépendance che lui ha. Addirittura, sì. Però sei molto disponibile. Senza averla mai conosciuta, gli è piaciuto questo modo con cui lei l'ha contattato, e noi, non dirò come finisce il libro, se non che finisce appunto, lui attende questa ragazza tutto sommato, e le ultime parole del libro sono: e così, con il vento in faccia e il sangue che ancora gli sgocciola dalla fronte, perché appunto ha fatto come te, ha avuto un piccolo incidente, il nostro eroe parte in cerca di aiuto, e quando arriva alla prima casa e bussa alla porta, si apre il capitolo finale della saga di S.T. Baumgartner. Si apre il capitolo finale che noi non leggiamo. Allora tu hai, quando l'ho letto in autunno, ho pensato: che bello, ci sarà un seguito. Quando lo leggi adesso dici: cavolo, era proprio un capitolo finale che noi non abbiamo letto, e che magari, e che lui invece sapeva, perché lui era malato già da tempo, che non ci sarebbe stato. Soft and green. Allora, avete ascoltato Tom Waits, state ascoltando anzi, Tom Waits che canta Innocent When You Dream. Chi ha visto il film Smoke di Paul Auster e Wayne Wang sa che questa è la canzone che appare sui titoli di coda alla fine, ed è un finale magnifico quello di quel film, perché il film si ispira a una storia, a un racconto di Natale che Paul Auster aveva pubblicato di recente, e che ha per protagonista il protagonista appunto di Smoke. E nella parte finale del film noi vediamo il racconto narrato senza parole, in bianco e nero, dalle immagini su questa musica, Innocent When You Dream, ed è veramente una cosa da pelle d'oca. Brividi, sì, ne conferma anche Luigi e dice che presentazione coinvolgente. Grazie Luigi. E fra l'altro sogno è anche parte, sì, è nella narrazione che abbiamo appena portato. Iniziamo con un primo quiz, mi rendo conto, insomma, andare a Ravenna, ma il protagonista Abdullah Ibrahim, musicista sudafricano che ha portato un'espressione di un pianismo unico, se vogliamo, nella sua ricchezza di note e letterario nel racconto musicale. Lo conosciamo meglio con un altro nome, lo conosciamo meglio con un nome d'arte. Qual era nome d'arte? Abdullah Ibrahim, musicista sudafricano, come ho detto, meglio conosciuto come... Beh, volete andare a Ravenna al Festival Jazz? Questa è una possibilità che porta il Voltiamo Pagina, rispondendo al 333-180-9494. È domani sera al Teatro Alighieri, in quel di Ravenna. Ora vedrò anche l'orario per dare... Alle ore 21. Alle ore 21, Teatro Alighieri. Ieri Abdullah Ibrahim solo, ma il nome di Abdullah Ibrahim che conosciamo meglio per quanto riguarda la parte artistica di questo pianista, me lo direte voi appunto per raggiungere la città di Ravenna e il Festival Jazz edizione 2024. Paola, Dollar Brand, esattamente, quindi sarai contattata e per te ci sono i due biglietti messi a disposizione da Stefano. Quale Paola? Notaio. Ah, non mi chiedere troppo, perché ne abbiamo tre. Io adesso però ho selezionato il numero e non posso sbagliare, verrai contattata al termine del Voltiamo Pagina. Hai portato un libro misterioso in premio perché è giustamente il lavoro di Paul Auster. Dici, beh, questo me lo tengo. Sì, questo infatti, ci mancherebbe, guarda, hai questo tutto proprio diritto. È mio, poi non avevamo neanche parlato. Sì, sì, è anche tutto segnato, fra l'altro. Quindi. No, quello è un valore aggiunto, come dico sempre. Però portiamo il quiz letterario dopo che quello musicale è stato risolto in tempi rapidi. Allora, il quiz letterario, prima dicevo che tutta la abbiamo sentito Tom Waits dalla colonna sonora di Smoke. Tutti i brani che sentiremo dopo saranno invece dalla colonna sonora del seguito di Smoke, che si chiama Blue in the Face e che è stato la cui regia è tutta di Paul Auster. Ecco, sia Smoke che Blue in the Face hanno un protagonista in comune. Io vorrei sapere che mestiere fa questo protagonista e chi è l'attore che lo interpreta. Ah, ok, 333-180-9494, il libro indubbiamente di qualità, però è un lavoro a sorpresa per voi. Aspettiamo le vostre risposte. In maniera sintetica lo ripetiamo. Il mestiere del protagonista, del personaggio che c'è sia in Smoke che in Blue in the Face, il mestiere quindi di questo protagonista, e il nome dell'attore che lo interpreta in entrambi i film. Film meravigliosi, tutti, sì, e due, secondo me. Ok, quindi apriamo con... brano? Ah, apriamo con David Byrne, chiaramente ti ho detto prima. David Byrne, che è quello che ha curato la selezione di tutti i brani di Blue in the Face, tra l'altro. A tra poco! The Pussycat, un capolavoro di cartone animato che ricordo ancora negli anni 80. Qui viene citato dal brano Soul Cowping dei The Brooklyn Knights. No, è il contrario, dai, il brano The Brooklyn Knights dei Soul Cowping. Ok, ma è che non conoscevo né l'uno né l'altro, per cui insomma, però conoscevo Juicy and the Pussycat, che questo cartone animato portato dove protagoniste erano questa formazione di musiciste, ovviamente tutte ragazze. Poi mi mi pare avessero alla batteria uno squalo antropomorfo, Jabber Joe si chiamava, chissà se avrò conferma da qualche ascoltatrice o ascoltatore appassionata o appassionato della produzione Anna e Barbera. Allora, tante risposte, grazie Andrea, seppur con qualche incertezza da risposta esatta, grazie anche a Maria Carla da risposta esatta. Diciamo intanto qual è la risposta esatta. L'attore è il grande Harvey Keitel e gestiva una tabaccheria, quindi con Blue in the Face, che è un film meraviglioso, allora andavo ancora al cinema, e il vincitore però, quello che ha risposto subito e se lo merita tutto, è Luigi. Grazie Luigi, avrai il premio a sorpresa che puoi ritirare in redazione quando ci vieni a trovare. Aggiunge Luigi con grande passione una considerazione: la morte di Oster io l'ho vissuta come la perdita di un gabber, un De André. Per me lui è stato un punto di riferimento. Anche per me. Non mi è facilissimo parlare di questo libro, se non che iniziare dicendo, e anche in conversazione con Silvia, c'è il Salone del Libro di Torino che non ho mai seguito, se non che per dare qualche notizia e qualche presenza. Ho notato attraverso i magazine, c'è un'uscita un po' più attenta in questo periodo, perché ho già 3 o 4 libri per presentare al Voltiamo Pagina, o non hai trovato nulla di nuovo in questo segmento di 2024? Allora, non ho seguito, come te, non seguo particolarmente il Salone del Libro di Torino, non l'ho seguito quindi neanche quest'anno. So che tutto quello che so è che partecipano 2 autori che abbiamo già presentato qua, sì, che sono Salman Rushdie e la Elizabeth Strout, e onestamente non ti so dire se ci siano delle a tutto ciò, ecco, delle uscite nuove interessanti o altro. Devo dirti però che ho letto dei libri che mi sono stati consigliati nei mesi precedenti, nel periodo precedente, e ho letto dei libri interessanti di cui avrei parlato oggi se non moriva Paul Auster, e di cui comunque parleremo avremo modo di parlare nelle prossime settimane, che paradossalmente però dei libri italiani, devo dire che paradossalmente non ho mai visto recensiti da nessuna parte. Bene, questo quindi sarà un'ulteriore proposta per quanto riguarda il Voltiamo Pagina. Io sottolineo una casa editrice che abbiamo conosciuto con Orso, questo libro scandaloso, pruriginoso, che qualche puntata fa ho portato al Voltiamo Pagina, col primo libro con il quale io ho conosciuto La Nuova Frontiera, una casa editrice da seguire. L'altro libro era Il Tarlo, adesso l'autrice di quest'ultimo non la ricordo esattamente, ma avrò modo di sottolineare con La Nuova Frontiera anche questo lavoro. Casa editrice particolare che dà ricerca e allo stesso tempo originalità. È il momento del custode. Allora, custode con la copertina o un piccolo cimitero davanti a una villetta, ho detto, indipendentemente dal contenuto, questo libro è mio. Lui è Ron Rush, scrittore americano, e già questo, insomma, che tipo di scrittore americano? Totalmente diverso come zona geografica, siamo nel sud degli Stati Uniti e già, a parte i cimiteri, abbiamo aspetti che mi allontanano un po' per il gusto personale, ma sono voluto andare oltre e ho fatto molto molto bene. Vi dico che Il Custode di Ron Rush, edizione La Nuova Frontiera, è il secondo libro che andrà in cinquina Pellegrino dopo quello già proposto di Percival Everett. Ok, allora parliamo dell'autore velocemente. lui è considerato uno dei più importanti per quanto riguarda la letteratura, per quella che viene definita come letteratura del sud degli Stati Uniti d'America. Ron Rush è ormai considerato un classico della letteratura del sud. Non mi appartiene particolarmente, ma ciò non toglie che quando si trova un bel libro, bello è, e questo è molto bello. Le prime pagine sono come un romanzo di guerra, con un duello feroce tra il protagonista o coprotagonista, il soldato Jacob, e un incursore nord coreano, siamo ai tempi della guerra di Corea. È un momento di lotta corpo a corpo su un fiume ghiacciato, un incipit fulmineo, un duello tra due in quel momento protagonisti che non vorrebbero assolutamente essere lì. L'avversario di Jacob è un fantasma senza volto che alla fine riesce a uccidere, e lui stesso restandone ferito e salvandosi con grandissima difficoltà, tanto più che i suoi compagni lo pensavano già bello che morto, lo credevano disperso o morto. Lui con grande difficoltà riesce a salvarsi. Piccola nota da queste pagine: letteratura del sud, ci aspettiamo qualcosa che anche nelle parole, nella comunicazione, nelle emozioni sia truculenta, sanguinolenta, con particolari agghiaccianti. A proposito di fiume ghiacciato, no, nulla di tutto questo. Troviamo anche un aspetto poetico in un momento di grandissima difficoltà. Le frasi sono brevi, sono solenni. A proposito di custode, di depositi delle memorie, posso dire come delle epigrafi, il momento di scrittura viene riportato con queste caratteristiche per quanto riguarda Ron Rush. Non è un romanzo di guerra, è un romanzo su quello che succede all'interno di una piccola comunità, in particolare di una famiglia, dove tutto pare procedere molto bene, ma a quanto pare dietro ci sono dei fantasmi veramente terrificanti. La terribile avventura di Jacob sarà infatti per i genitori in questo paese del North Carolina lo strumento per mettere in atto un piano veramente demoniaco. Allora, dovete sapere che Jacob, poco prima di essere arruolato, si innamora di una giovanissima ragazza. Beh, la passione è forte, lei resta incinta. 4 giorni dopo arriva la cartolina per arruolarsi. La famiglia deve assolutamente annullare, già figuriamoci contraria a questo matrimonio, adesso addirittura deve arrivare un erede. Loro non sono preoccupati per un figlio che rischia di morire, sono preoccupati di distruggere questo matrimonio in ogni modo. Questa ragazza, ancora minorenne, trova rifugio, scappa in un piccolo paese del Tennessee da un padre assente in una fattoria isolata. Jacob, dopo una lunga degenza in ospedale, fa ritorno. I genitori cosa dicono a Jacob? La tua ragazza, tua moglie, è morta con ancora il bambino in grembo. È tremendo. Lui chiaramente a questa notizia crolla. Ma attenzione, non finisce qui. Alla ragazza diranno: guarda che tuo marito Jacob è morto in guerra. Che allegria! Eh? Che allegria! Lui al momento della notizia di questa ragazza, è lui che deve partire, la notizia, attenzione, della ragazza in stato interessante, lui ne è il papà, lui deve partire, e lui cosa fa? Lui chiede a un amico che nella seconda parte, o già da subito se vogliamo, ma nella seconda parte sarà ancora più protagonista, tra l'altro prende il titolo, è il custode di questo piccolo cimitero, dice: guarda, io non ho nessuno, la mia famiglia ha reagito in questo modo alla notizia, e questo giovane enorme, tra l'altro col viso deformato da una malattia tremenda, dal nome Blackburn, il nome del coprotagonista, è il custode di questo piccolo cimitero, e anche lui tutta la comunità intorno a questa famiglia, perché poi è un aspetto tremendo di una provincia malsana, una provincia demoniaca in questo caso, che con una sorta di omertà allo stesso tempo e di risposta una bugia che veramente doppia con questa doppia morte che in realtà non c'è, costruiscono addirittura, riempendo una bara di sassi e di sabbia, il funerale di questa sventurata ragazza. Blackburn, il custode, ovviamente non, primo, non crede, secondo, deve far luce sui fatti, diventerà in maniera spirituale un po' una sorta di indagatore a tutto ciò, no? Un eroe di un elegioco romanzo familiare, così viene definito. Il suo lavoro fra le tombe è come una forma di preghiera e anche l'ostinazione di proteggere questi ostinati ma sfortunati amici. Insomma, il custode, ve ne ho parlato così in maniera molto ridotta e se vogliamo anche in maniera molto rapida, perché non è un romanzo che porta una estensione 300 pagine, ecco, sicuramente mi va in cinquina Pellegrino, a me è piaciuto tantissimo, l'autore John Rush, La Nuova Frontiera è la casa editrice secondo me da seguire, lo metto in palio e quindi... Letteratura del sud fino a un certo punto, eh? È molto molto, sì, dimenticate Sutridi, McCarthy, no, tutto, per me no, per me almeno no, se no non l'avrei neanche letto. Cioè, tra l'altro è un libro che non consiglio a Pasquali, ecco, che invece... Perché? No, perché è troppo poetico, è troppo, come t'ho detto, no. Ma consiglio a tutte e a tutti voi. Senti, non è che per caso c'ha qualche... viene un pochino da Romeo e Giulietta, in fin dei conti, sta storia. È Romeo e Giulietta. Con le famiglie, io sono impazzito. Con le famiglie rivali. È Romeo e Giulietta. Con uno che crede che sia morto, l'altro, e lei che è morta apparente, lui che la crede morta e si ammassa, lei si risveglia, sì, e lui c'è morto. Non abbiamo mica citato Fabio Volo, eh? Cioè, questo no, scusa. È Romeo e Giulietta. Sì, appunto. Questo, in versione letteratura. Non lo dicevo mica per denigrarlo. Per denigrarlo, dicevo solo che mi sembra proprio là alla base ci sia, sì, il canovaccio di Romeo e Giulietta. Per avere il custode di Ron Rush, il quiz, abbiamo detto, ma che tristezza, ma che... No, non è vero, non c'è nulla di triste, c'è la vita, ecco, lo dico da ex operatore dei depositi della memoria. Resto interrogativo, a volte piacevolmente stupito, a volte non li ho mai criticati, però hanno svoltato completamente l'idea di agenzia delle pompe funebri. È un'impresa, non credo di fare pubblicità se vi chiedo il nome di questa impresa. Ha portato un'ironia, oltre che un aspetto di attenzione. Sapete bene che dietro il carro estinto vi è qualcosa che porta affari, no? E in questo caso hanno avuto un'attenzione per questo. Io do merito a questa impresa che tratta anche in maniera coraggiosa. Ne troviamo dei poster pubblicitari in giro per la città. Beh, me ne scrivete il nome, tanto non abbiamo timore di farne una pubblicità non troppo occulta, direi. Comunque, per avere il custode ha avuto motivi di critica, hanno sconvolto, se vogliamo, anche alcuni ben pensanti. Per avere Ron Rush, il custode, La Nuova Frontiera, mi dite il nome di questa agenzia di pompe funebri. Oh, sta terminando il brano? No, eccolo qua. Thank you. young man, no bigger than this. A chocolate egg cream was not to be missed. Some new veg chocolate syrup, seltzer water mixed with milk. Non posso dare il nome del vincitore perché sono già le 8:51, ma un vincitore c'è, cioè, state scrivendo a decine. State scrivendo a decine. Leggo da Andrea, leggo da Dino della Bolognina, Sergio che dice siete troppo severi, Paola B anche. Severi sta scrive... perché? Ah, non lo so, aspetta adesso se riesco. Siete troppo severi. Magari a San Giuliano Fabio Volo piace, ecco. Ah, dire. Per quello. Il vincitore o la vincitrice sarà chiamato. Stanno arrivando decine di messaggi. La risposta è giusta. È Taffo Funeral Service. E comunque io sarei già contenta se San Giuliano leggesse Fabio Volo, ma non legge neanche quello. E noi ci salutiamo con Lou Reed, sì. A proposito della colonna sonora che abbiamo citato nel film Blue in the Face nella precedente presentazione. L'appuntamento è a mercoledì prossimo, vi lasciamo con l'Edipo Enciclopedico. Domani andiamo in mostra come ogni giovedì alle ore 7 al Breakfast Club. Scusate la sintesi nel saluto, ma siamo veramente in ritardo. Grazie Silvia, a mercoledì. Grazie a te, grazie a tutte e a tutti. Ciao.